una notte di sale e di luna, sopra un battello di poca fortuna, giunsi alla riva senza nuotare, come un relitto portato dal mare. Curva la schiena dall'alba al tramonto, il sacrificio di fare il raccolto, dalle campagne ad un cielo stellato che brilla oltre un rovo di filo spinato. Media un lavoro sicuro ed un tetto, porta una rosa d'amore sul petto. Media un lavoro sicuro ed un tetto, porta una rosa d'amore sul petto. Chiuso in un centro di permanenza, senza un diritto né alcuna sentenza, nella sua cella continua a sognare di prendere ancora le strade del mare. Media un lavoro sicuro ed un tetto, porta una rosa d'amore sul petto. Media un lavoro sicuro ed un tetto, porta una rosa d'amore sul petto. Continua a sognare di prendere ancora le strade del mare.